Marito Roger di Cuneo. Ciao. Portaci la statua delle due teste. Posso? Vai. No, io volevo dire subito che condivido la relazione fatta da Rosina, che ha toccato tutti i punti, molto ricca, molto interessante. La considerazione che voglio fare io però, voglio partire da questa perdita di iscritti che non riusciamo ad invertire come tendenza. Siccome sono convinto che un sindacato non soltanto ha bisogno per la parte economica di avere più iscritti, ma per la stessa capacità politica anche di confronto con le istituzioni, ha la necessità di avere questa capacità di convincere la gente sulle bontà delle politiche, in questo caso dell'organizzazione della CEI. Allora, è importante e fondamentale l'accordo fatto dal sindacato, perché finalmente si è ripreso questo confronto, diciamo, con il governo, e c'è la speranza che possa continuare, possa dare effettivamente dei risultati positivi, e questo la gente lo percepisce, anche perché è stata allargata la platea dei pensionati per quanto riguarda la quattordicesima. C'è un discorso che il sindacato dovrebbe portare avanti con più incisività, che è quello che riguarda l'Europa, perché è fuori discussione che negli anni a venire sarà importante e fondamentale parlare molto d'Europa se vogliamo reggere il confronto con gli altri continenti. Credo però che sia altrettanto importante un ragionamento fatto dalla nostra organizzazione come CISL per quanto riguarda le politiche territoriali. Io sono tra coloro che hanno sostenuto con forza il discorso delle zone, perché ritengo che attraverso il rafforzamento delle politiche territoriali si sostiene con più forza e con più convinzioni le politiche a livello nazionale. È chiaro però che un ragionamento di politica territoriale comporta alcuni chiarimenti che è bene fare all'interno di un congresso. Se questo asse dell'organizzazione viene spostato sul territorio attraverso le zone, deve essere un ragionamento complessivo, non soltanto della FNP, ma deve coinvolgere tutte le categorie, cosa che invece oggi chi apre e chi chiude le sedi nelle zone è la FNP. Molto probabilmente qualche errore l'abbiamo fatto anche noi come FNP. Negli anni passati ci siamo adagiati troppo sui servizi e abbiamo sospeso tutta la partita della contrattazione con le istituzioni a livello territoriale. E quelli che allora sostenevano con forza l'importanza della contrattazione territoriale non erano guardati male, ma forse era più comodo all'interno di una sede nostra la prima porta a destra, la prima porta a sinistra e sostenere i servizi e non la contrattazione. Oggi è radicalmente cambiato il panorama e di questo dobbiamo rendercene conto. Innanzitutto bisogna spostare sul territorio, se veramente ci chiediamo, risorse umane ed economiche. Risorse umane ed economiche. E le persone che operano all'interno del territorio, all'interno della zona, devono essere persone innanzitutto preparati e che abbiano voglia di fare politica sindacale. Questo non vuol dire non sostenere, diciamo, i servizi, perché onestamente il tesseramento arriva anche di lì, molto meno che negli anni passati. Allora, le politiche territoriali vanno sviluppate giorno dopo giorno, non soltanto una volta all'anno nel confronto del bilancio, quando si va in comune e ci si confronta sulle previsioni del bilancio, giorno per giorno, perché il posto di lavoro dei pensionati è il territorio. Basta aprire un giornale provinciale e si trova subito la motivazione per andare dall'istituzione a discutere. Trasporti, sanità, assistenza, che stanno peggiorando giorno dopo giorno. Giorno dopo giorno. Allora, questo è il tipo di politica di contrattazione che dobbiamo fare sui territori. E rafforziamo il livello nazionale. Guardate la sanità. Nel giro di pochi anni diventerà prevalentemente una sanità privata. Allora, noi queste cose dovremmo rimarcarle e rimarcarle con forza ed essere convinti della bontà di quello che sosteniamo. E all'interno delle determinate province bisogna avere dei coordinamenti per parlare tutti la stessa lingua, altrimenti continuano a dividerci su alcuni argomenti, sanità, assistenza e trasporti. L'altra questione è quella dei servizi. A me ha fatto piacere sentire sia la responsabilità dell'INAS che quella del CAF. Però non è che possiamo continuare su questa strada. Chi vive quotidianamente all'interno, diciamo, di una sede sa benissimo qual è la situazione. E la faccia ce la mettono la nostra gente, quelli che fanno l'accoglienza, quello che devono sistemare le questioni quotidianamente. Ovviamente che c'è una professionalità sia nell'INAS che nel CAP che difficilmente la riscontri sul mercato. Però è il tempo che manca. Nelle zone l'INAS o il CAP non possono aprire un giorno e mezzo alla settimana, perché c'è la gente così. E le persone che vengono, diciamo, all'interno delle nostre sedi e vengono volentieri perché trovano delle risposte, è chiaro che vengono una, due o tre volte, la quarta non vengono più. Allora, e non possiamo tutte le volte ripetere queste cose, bisogna trovare delle soluzioni. Per quanto riguarda il CAP in particolare, il responsabile del CAP deve essere segretario generale della provincia. Se io ho bisogno di confrontarmi e di far presente, diciamo, alcune difficoltà che ci sono, è il segretario generale. Non può essere un altro. E un'altra cosa, quando stabiliscono i programmi bisogna sentire chi quotidianamente vive sul territorio, perché può darne dei consigli, perché i territori non sono tutti uguali, perché ci sono delle differenze e queste differenze qui possono essere rimarcate e possono servire sempre per invertire la tendenza a quelle che è la mancanza, diciamo, di persone che si vogliono associare alla nostra organizzazione. Guardate che questo è una questione che è fondamentale, quella del proselitismo, fondamentale. E credo anche che noi dovremmo fare uno sforzo. Quei territori che sono riusciti a sviluppare, diciamo, le zone in un determinato modo, che siano tanti o siano poco, vanno in qualche modo premiati con la presenza di queste persone all'interno degli organismi, perché possono dire qualcosa, perché possono portare a conoscenza degli altri quelle che sono state le politiche che hanno permesso di sviluppare la zona. Molte volte invece dà l'impressione che Cencelli fosse un dilettante nei confronti nostri, fosse veramente un dilettante. Allora, se per cambiare, bisogna cambiare veramente all'interno degli organismi, lo dice lo statuto, ci vogliono persone che siano in grado di dire di alcune cose, magari il perché le hanno vissute, o perché sono riuscite, magari per fortuna in un territorio, o per capacità anche, mica bisogna spaventarci. Ma bisogna però, se vuoi cambiare, veramente cercare di invertire la rotta. E un'ultima cosa, io ero uno di quelli che questa mattina nel filmato, no, perché sono vecchio, c'è una cosa però di differente, che allora c'era la voglia, la volontà, facevi le cose e le facevi col gusto, con la passione. Oggi è difficile trovare delle persone che abbiano voglia di impegnarsi all'interno della FNT, a meno che non ci sia il compenso. Su questa cosa veramente noi dobbiamo ragionarci sopra, dobbiamo riscoprire la bellezza del volontariato all'interno della sindacato. Grazie.